Buonasera a tutti e a tutte e grazie per essere qui. Io dirò solo due parole al volo per introdurre i nostri ospiti di questa sera, che sono appunto Claudia Pinelli, che dialogherà assieme a Alessandro Canella e della Radio Città Fujiko. Io mi sento fastidiosissimo. All'interno dell'insieme di eventi che abbiamo fatto come XM Eventi di Liberazione, in questo da marzo-aprile, abbiamo fatto tante cose, dalla passeggiata resistente in Bolognina a una serie di eventi di controinformazione e presentazione di opuscoli sulla realtà neofascista attiva in Italia oggi, ultimo quello di ieri su Evita Peron e quindi l'attività di Forza Nuova contro le loro false idee femministe. Cosiddette. All'interno di questo panorama di iniziativa abbiamo deciso di concentrarci oggi alla vigilia della giornata importante che sarà domani a Bologna, con un sacco di altre iniziative per la liberazione della città di Bologna, e a qualche giorno dal 25 aprile, in cui ricordo che ci sarà una manifestazione che partirà alle 10 di mattina dalla Rotonda d'Odia alla Barca per arrivare fino al Pratello in piazza San Rocco, e che vedrà chiaramente anche la partecipazione di XM. Abbiamo deciso di prenderci una serata per parlare di antifascismo in un modo un po' più complesso, in un modo un po' più approfondito, che parta da un'esperienza storica determinata e precisa, che è quella appunto del dicembre del 69 di Piazza Fontana di Milano, dell'assassinio di Giuseppe Pinelli, di cui abbiamo qua oggi appunto la figlia. E perché questo? Perché in questo periodo storico, in questo momento in Italia, abbiamo visto tante realtà politiche, istituzionali e meno, utilizzare la parola antifascismo come se fosse ogni tanto anche una bandiera che può essere sventolata in campagna elettorale, in certi momenti circoscritti, o semplicemente contro delle realtà politiche specifiche che sicuramente esistono e sulle quali sicuramente è importante mantenere un certo tipo di monitoraggio. Mi riferisco appunto a Casa Pound, Forza Nuova, eccetera, quelli che sappiamo che esistono come movimenti che si rivendicano un certo tipo di fascismo, ma crediamo anche che antifascismo debba essere anche qualcos'altro, e che sia, la storia d'Italia insegna, non essere mai stato il fascismo qualcosa di totalmente antitetico alla realtà democratica e istituzionale di questo paese, ma dal 45 in poi la storia ci insegna che i momenti di continuità sono molto maggiori di quelli di rottura. Non da ultimo il decreto Minniti di questo inverno, no, dell'inverno precedente, e tutto quello che ha portato in termini di restrizioni di libertà, portata avanti da un decreto appunto dello Stato e non da un partito neofascista, ma dal PD. Quindi un po' l'idea nostra era aprire a un dibattito sull'antifascismo e la resistenza oggi con un presupposto storico concreto. Ringrazio tutti per essere qua, ringrazio in particolare Claudio per averci raggiunto e Alessandro, e vi lascio la parola. Buonasera, tanto grazie a XM per avermi invitato a moderare questo incontro, a cui tengo particolarmente, perché insomma già un nome, come dire, Pinelli, in quelli della mia generazione che non hanno conosciuto da viventi, perché appunto non eravamo ancora nati, quella storia l'abbiamo imparata nella canzone di Pino Masi o frequentando gli ambienti e leggendo libri. E quindi insomma essere con una protagonista tuo malgrado è una cosa che è, come dire, molto importante, di cui sono molto contento. E ringrazio ovviamente XM, che con questa serata, ricordiamo, insomma, XM, lo dico anche a Claudia, è sotto sfratto da parte del comune, e penso che serate come queste siano una forma di resistenza. Visto che parliamo di antifascismo e di resistenza concreta, perché come dire, fare cultura, fare dibattito, confronto è sicuramente una forma di resistenza. E, introducendo, allora, entrando nel vivo, non perdendo troppo tempo, mi ricollego un po' a quello che diceva Maddalena prima. In realtà, come dire, di fascismo in Italia si è continuato a morire Già il giorno dopo del 25 aprile, prima dicevamo, ricordavamo 1º maggio 1947, Portella della Ginestra, 6 luglio 1960, i morti di Reggio Emilia, fino ad arrivare al 12 dicembre, del 1969 e al 16 dicembre, la notte tra il 15 e il 16 dicembre del 1969. Quindi insomma, anche perché vedo tra il pubblico molti giovani più o meno della mia età, Claudia ti chiedo di presentarti per prima cosa, raccontare chi sei e qual è la storia della tua famiglia e di tuo padre in particolare. Buonasera a tutti, grazie, veramente grazie per questo invito. Allora, io sono Claudia Pinelli, sono la figlia minore di Giuseppe Pinelli, di Giuseppe e Licia. È una storia che a molti di voi a livello generazionale non appartiene, appartiene alla storia del nostro paese. Maddalena e Alessandro hanno detto delle cose importanti, no? Come il nostro paese non si sia mai liberato dal fascismo. In effetti, il nostro paese non si è mai liberato dal fascismo. Nel 1969, quando la vicenda che mi riguarda più da vicino ha avuto il suo tragico epilogo, non c'erano in Italia funzionari dello Stato che non fossero stati formati durante il regime fascista. Tra prefetti, viceprefetti, questori, erano stati tutti formati durante il ventennio, avevano mantenuto la loro posizione e avevano continuato a fare carriera nella democrazia. Ecco, quindi chiaro che adesso noi stiamo vivendo dei momenti estremamente difficili, difficili per il ritorno di fascismi, che sono fascismi che manifestano xenofobia, razzismo. Nella storia del nostro paese abbiamo vissuto degli altri avvenimenti estremamente drammatici, fatti di strage. E la cosa importante, la cosa fondamentale, è che abbiamo resistito. E a quasi 50 anni da quei fatti siamo ancora qua a parlarne e a ricordare. E anche essere una bella spina nel fianco di qualcuno è qualcosa che può rendere giustizia alla figura di Giuseppe Pinelli. Non hanno potuto cancellarlo come pensavano che sarebbe successo. Giuseppe Pinelli chi era? Era un ferroviere, era un anarchico. Un giudice disse a mia madre: non pensavamo che un anarchico avesse tanti amici. Ecco. Quindi non pensavano che di Giuseppe Pinelli si sarebbe parlato anche dopo, pensavano di averlo cancellato. Ecco, non ci sono riusciti e questa è la nostra forma di resistenza in tutti questi anni. Quindi se devo un attimino ricostruire per presentare la nostra storia, chi era Giuseppe Pinelli? Giuseppe Pinelli era una persona che viveva attivamente il suo tempo. Aveva lasciato la scuola molto giovane per aiutare economicamente la famiglia, come succedeva a molti della sua generazione, ma aveva continuato a leggere, a studiare. Tra l'altro, il suo primo datore di lavoro era un anarchico che ha un ragazzino di 10 anni, un bambino. E gli parla di anarchia e gli dà da leggere i testi chiave dell'anarchia e si forma così, si forma con Bakunin, con Malatesta. Partecipa alla Resistenza, è una giovanissima staffetta partigiana a Milano e esce dalla guerra con il rifiuto totale per qualsiasi forma di autoritarismo. E studia l'esperanto, che doveva essere quella lingua universale che avrebbe abbattuto ogni frontiera linguistica. E proprio a un corso di esperanto conobbe mia madre Licia. Lei avrebbe voluto impararlo, Pino che ormai lo parlava molto bene e lo scriveva, voleva insegnarlo. Mia madre non l'ha mai imparato. Pino attraverso l'esperanto comunica con persone di ogni parte d'Europa. persone che poi ospita anche a casa sua. Pino è una persona estremamente estroversa, estremamente comunicativa. Licia, mia madre, è decisamente più riservata come carattere. Pino è un entusiasta. E sono anni di speranze di profondi cambiamenti sociali. E Pino ci crede. Aderisce alla gioventù anarchica. Negli anni permette di aprire diversi circoli, contribuisce ad aprire diversi circoli anarchici a Milano, prima il Sacco Vanzetti in Viale Murillo, poi il Ponte della Ghisolfa alla Bovisa, poi il Circolo Scaldasole al Ticinese, che sono tutti i quartieri di Milano. E vince un concorso ed entra a lavorare in ferrovia, il primo posto di lavoro vero, fisso, per cui si sposano Pino e Licia. E negli anni nasciamo mia sorella Silvia e io, e viviamo in una casa popolare di due locali nel quartiere di San Siro. E Pino è una persona estremamente aperta, estremamente comunicativa, come dicevo prima, e è molto impegnato, impegnato sia sul lavoro che nella famiglia, ma impegnato anche a livello sociale. Vive il suo tempo, quindi sono anni di, dicevo prima, di speranze di profondi cambiamenti, no? Partecipa a dibattiti, li organizza manifestazioni, è molto attivo sui temi della non violenza e dell'obiezione di coscienza al servizio militare, dell'antimilitarismo, aiuta gli obiettori di coscienza al servizio militare. È chiaro che adesso sembra una cosa strana, ma si finiva in galera se rifiutavi di fare il servizio militare. E quindi è un'attività illegale, eh? Quindi non è un passivo, è una persona che fa, che ha degli ideali, e attraverso questi ideali comunica con persone che sono anche molto lontane da lui a livello di idee, con molti cattolici del dissenso, no? Sui temi comuni dell'obiezione di coscienza e della non violenza. Come modello gandhiano, cioè non violenza ma attiva, cioè di ribellione verso un potere. Quindi sono gli anni 1967-68, sono anni di grande rivoluzione sociale, no? Si intensificano le contestazioni a scuola, no? Di un sistema che era precostituito, cioè una contestazione al concetto di famiglia. Si intensificano le manifestazioni operaie, no? per avere maggiori diritti per tutti. Pino partecipa, Pino c'è. E fa da tramite tra generazioni, tra i giovani della contestazione e i vecchi anarchici. E questo me l'hanno raccontato molti di quelli che erano molto giovani allora, quando sono entrati per la prima volta in un circolo anarchico, oppure lo hanno incontrato e gli hanno parlato mentre lui stava volantinando, e quindi si sono scambiati. E mi ha detto: tuo padre è stato un padre per noi. Cioè, siamo entrati al circolo anarchico pensando che avremmo fatto la rivoluzione. Lui per prima cosa ci ha dato dei libri da leggere, perché bisogna cambiare le teste prima di rivoltare le cose. In più Pino era profondamente non violento, pacifista, diciamo, perché era la sua idea di anarchia. La sua idea era che usare la violenza sarebbe stato sostituire una violenza con un'altra violenza, e quindi un potere con un altro potere. E invece bisognava trovare un'altra strada, una strada diversa. La nostra piccolissima casa in popolare, mia madre la definisce un porto di mare, perché c'è sempre gente che entra, che esce. Tra l'altro mia madre, quando siamo nate mia sorella ed io, ha smesso di lavorare in ufficio, ma ha continuato a lavorare a casa, facendo un lavoro assolutamente desueto adesso, che era scrivere a macchina, ricopiare a macchina i lavori degli assistenti universitari, quindi le tesi di laurea degli studenti. ed erano quasi tutti dell'Università Cattolica. Quindi in casa c'era sempre gente, c'era chi dettava il lavoro a mia madre, chi lo correggeva, chi preparava il caffè, mio padre faceva i turni perché lavorava in ferrovia, arrivava a casa, preparava il risotto per tutti. C'erano i compagni che entravano, che venivano, che era anche un luogo di discussioni. E mio padre aveva fatto una piccola targa, l'aveva incisa di legno, l'aveva incisa lui e aveva scritto sopra: io sono un anarchico. E a chi entrava in casa la mostrava, suscitando così il confronto, il dibattito. L'impegno di Pino nel movimento anarchico e nel sindacato negli anni va aumentando sempre di più. Cioè Pino è una persona che fa, è una persona che organizza, è una persona che partecipa. Ma tutto quello che è successo nel 1969, che culmina con la strage di Piazza Fontana, non è venuto da nulla. 1969, l'autunno caldo, cioè le proteste operaie per le richieste di maggiori diritti, si raggiunge un numero spaventoso di ore di sciopero all'interno delle fabbriche. Si parla di autunno caldo. A Milano, durante una manifestazione per il diritto alla casa, in Via Larga, durante gli scontri, muore un agente di polizia, l'agente Annarumma. Non si sa tuttora come sia morto effettivamente, nel senso che le camionette della polizia facevano delle gincane sui marciapiedi e c'erano delle impalcature. Qualcuno ha staccato i tubolari delle impalcature, ma non si sa se la camionetta della polizia è finita contro un'impalcatura che ha sfondato il vetro ed è morto l'agente di polizia, o se qualcuno, ancora adesso non si sa, o se qualcuno ha colpito l'agente con un tubolare. Però questo è sufficiente per l'allora Presidente della Repubblica per andare in televisione e parlare di facinerosi, violenti, che da reprimere assolutamente. E c'è un aumento, no, c'è un aumento della tensione a ogni manifestazione di piazza. Nel 1969 ci sono più di 145 attentati. 145 attentati che culminano con la strage di Piazza Fontana, che sarà la strage che fa i morti nella Banca Nazionale dell'Agricoltura, ma ci sono stati 145 attentati. E per alcuni degli attentati precedenti alla strage di Piazza Fontana, il 25 aprile del 1969 scoppia una bomba alla Fiera Campionaria di Milano e all'ufficio cambi della stazione centrale. E nell'agosto del 1969 ci sono una serie di bombe su una decina di treni. Per questi attentati precedenti, la questura di Milano arresta dei giovani anarchici, che si faranno circa 3 anni di carcere prima che la loro innocenza venisse riconosciuta e da sentenza di tribunale venga riconosciuta la colpevolezza di un gruppo nazifascista veneto, Ordine Nuovo. Per questi giovani arrestati, Pino attiva la Croce Nera Anarchica, quindi gli assicura l'assistenza legale, gli invia libri, gli invia lettere. E tra l'altro l'ultima lettera che mio padre scrive è particolarmente significativa perché la scrive il 12 dicembre del 1969 e la scrive a uno di questi giovani arrestati. E in questa lettera, mentre gli dice: non mi fanno mandare libri politici, quindi ti spedisco un libro di poesie, l'antologia di Spoon River di Edgar Lee Master, che era il suo libro del cuore. Anarchia non è violenza, la rigettiamo ma non vogliamo nemmeno subirla. Anarchia è ragionamento e responsabilità. Pino è una persona conosciuta a Milano, si muove in diversi ambienti, è conosciuto anche in questura, perché è uno dei maggiori referenti del movimento anarchico milanese e viene, dopo l'arresto di questi giovani anarchici e il suo impegno per la loro scarcerazione, viene ripetutamente convocato in questura ed è lui comunque che si reca in questura per chiedere l'autorizzazione alle diverse iniziative, per cui manifestazioni piuttosto che convegni. E il 12 dicembre del 1969 anche mio padre viene fermato. Alle 16:37 del pomeriggio una bomba scoppia all'interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura, quella che era la Banca Nazionale dell'Agricoltura, adesso c'è ancora una banca ma ha cambiato intestazione, e provoca nel tempo 17 morti e più di 80 feriti. Quel giorno le bombe sono state 5. La bomba in Piazza Fontana, che fa i morti, un'altra bomba viene trovata inesplosa all'interno della banca commerciale in Piazza della Scala, e 3 bombe a Roma, tutte nelle stesse ore. Una all'Altare della Patria, una davanti al Museo del Risorgimento e una nei sotterranei della Banca Nazionale del Lavoro in Viale Vittorio Veneto, quindi 5 bombe. Immediatamente le indagini si indirizzano verso il movimento anarchico, come era già successo per gli attentati precedenti. Con delle parti che adesso, guardandole adesso, costendole poi nelle ricostruzioni che hanno fatto anche storici che hanno pubblicato i verbali, abbiamo avuto ordine da Roma di arrestare almeno 150 persone, e siccome tra gli anarchici e gli appartenenti ai gruppuscoli extraparlamentari non ne avevamo a sufficienza, abbiamo fatto i rastrellamenti tra i barboni della stazione centrale. Vengono praticamente fermati tutti gli anarchici di Milano, e anche Pino viene fermato. Pino aveva fatto la notte, appunto lavorando in ferrovia, aveva i turni, quindi era tornato a casa e era andato a dormire. Verso mezzogiorno è arrivato un conoscente, quindi si era alzato, e sono arrivate, siamo tornate da scuola io e mia sorella, abbiamo mangiato insieme, poi mio padre è uscito con questo conoscente. Noi sappiamo che è andato, spostandosi per la città con il suo motorino, è andato a ritirare la 13ª, è andato in un bar a giocare a carte, è andato al circolo anarchico Ponte della Ghisolfa, dove ha scritto questa lettera di cui vi accennavo prima. E poi, sempre con il suo motorino, si è spostato al circolo Scaldasole, al Ticinese, dall'altra parte della città. E lì ha incontrato la polizia, che aveva effettuato una perquisizione e che lo invita a seguire la volante con il suo motorino per degli accertamenti in questura. Quindi mio padre in questura entra così, seguendo la volante della polizia con il suo motorino. Io e mia sorella avevamo 8 e 9 anni e noi non sapevamo che era scoppiata una bomba in una banca e che avesse fatto dei morti. E quindi eravamo andati a giocare da una vicina e quel tardo pomeriggio siamo tornati a casa rincorrendoci per le scale, e la porta del nostro piccolissimo appartamento è spalancata, entriamo correndo. Siamo abituati a vedere persone in casa, per cui io faccio per avvicinarmi, dice mia madre, mi prende per un braccio e mi dice non puoi avvicinarti, questa è la polizia. E quindi assistiamo alla perquisizione, era una perquisizione. Io me le ricordo tutte in borghese, queste persone all'interno di casa nostra, che rovesciano tutto per terra, svuotano la libreria, svuotano l'unico armadio che avevamo, rovesciando tutto per terra, aprono i regali di Natale che Pino dice avevano nascosto dentro l'armadio. E quando vanno via, Licia cerca di mettere a posto al macello che hanno lasciato, e ci dice che è successo un fatto molto grave, che è scoppiata una bomba in una banca, che ci sono stati dei morti e che anche nostro padre è stato fermato, ma ci tranquillizza, ci dice gli faranno prendere un bello spaghetto e poi lo faranno tornare a casa. Quelle frasi che ti rimangono, perché gli ho chiesto cosa vuol dire prendere uno spaghetto. Faranno prendere uno spavento e poi lo faranno tornare a casa. E invece Pino a casa non tornerà mai più, perché dopo 3 giorni di fermo illegale, perché il fermo avrebbe potuto al massimo durare 48 ore, si protrasse per oltre 72 ore, nel corso dell'ennesimo interrogatorio, nella notte tra il 15 e il 16 dicembre, nel corso di un interrogatorio, mio padre precipita dalla finestra del quarto piano della questura e si schianta nel cortile della questura. È in corso un interrogatorio, ci sono poliziotti e carabinieri all'interno di quella stanza. Nessuno scenderà in cortile. Dovevano concordare una versione. arriveranno dei giornalisti accanto al corpo di mio padre. E arriveranno dei giornalisti a casa nostra e diranno a Alicia che Pino si trova in gravissime condizioni all'ospedale Fatebene Fratelli perché è precipitato dalla finestra dell'ufficio del commissario Calabresi. Mia nonna, la mamma di Pino che dormiva con noi quella notte, si precipita fuori di casa per raggiungere l'ospedale. Mia madre deve trovare qualcuno che ospiti me e mia sorella, avevamo 8-9 anni, e va al telefono e chiama in questura e le risponde il commissario Calabresi, a cui chiede perché non è stata avvisata. Sono arrivati dei giornalisti, mi hanno detto che mio marito è successo questo, perché se non sono stata avvisata. E si sente rispondere, ma sa signora, abbiamo tanto da fare. In effetti, invece di avvisare la famiglia, la questura di Milano organizza immediatamente una conferenza stampa. In quelle ore era stato arrestato un altro anarchico, Pietro Valpreda, ballerino anarchico, come se ballerino fosse un peggiorativo della parola anarchico, che si farà più di 3 anni di carcere da innocente, con l'accusa di essere il mostro che ha messo la bomba alla Banca Nazionale dell'Agricoltura. Conferenza stampa. A conferenza stampa, il questore di Milano, che era Marcello Guida, e qui torniamo a quello che avevamo detto, Marcello Guida era stato il direttore del confino fascista di Ventotene, in cui era stato rinchiuso anche Sandro Pertini, che alla giornalista Oriana Fallaci raccontò anni dopo che durante un incontro che avrebbe dovuto avere con Marcello Guida, si rifiutò di stringergli la mano, non solo perché in lui aveva riconosciuto il suo carceriere, ma perché su di lui pesava la morte di Giuseppe Pinelli. Il questore di Milano, Marcello Guida, presente il capo dell'ufficio politico, che era l'attuale Digos, l'ufficio politico, quindi il dottor Allegra, presente il commissario Calabrese, affermeranno che mio padre si è suicidato a dimostrazione della sua colpevolezza. E alla giornalista Camilla Cederna diranno, le giuro, non lo abbiamo ucciso noi. Si è suicidato al grido, è la fine dell'anarchia. Se fossi stato un anarchico avrei fatto lo stesso. Tutte menzogne di cui mai nessuno verrà chiamato a rispondere. Mia madre raggiunge l'ospedale con questi amici che sono venuti a prendere me e mie sorelle e ci hanno portato a casa loro e che accompagnano mia madre in ospedale, dove trova mia nonna che vaga per le corsie dell'ospedale da sola perché nessuno le ha detto nulla e nessuno le ha fatto vedere il figlio. Ha capito che è morto perché ha visto un infermiere che ritirava il modulo dall'obitorio. Il giorno dopo i titoli sui giornali, arrestato il mostro di Piazza Fontana, della strage di Piazza Fontana, Pietro Valpreda, un anarchico colpevole, si è suicidato nella questura. Mia madre si trova da sola con 2 figlie piccole in quella situazione e con un piccolo gruppo di amici che le stanno vicino da subito, che non fanno parte del mondo anarchico perché gli anarchici erano stati praticamente tutti o fermati o arrestati. Sono tutti cattolici, sono tutti assistenti universitari dell'Università Cattolica. Tutte persone che, avendo conosciuto Pino, non ne hanno mai dubitato e le stanno accanto. L'accompagnano all'ospedale, andranno a ritirare il motorino di Pino in questura e cominciano a pensare che cosa si può fare. Mia madre si impetrisce. Non ha modo di, non può abbandonarsi al dolore, perché bisogna reagire a un'ingiustizia. Le dicono, devi trovare un avvocato. Faccio, ma come io devo trovarmi un avvocato? Cioè, hanno ucciso mio marito, io devo trovare un avvocato? Sì, devi trovare un avvocato. E arrivano questo primo gruppo, 3 avvocati, perché i tempi non erano esattamente come sembrano adesso, non erano tempi semplici. È stato un periodo estremamente difficile. e parte la prima denuncia del questore di Milano per diffamazione, cioè la morte non potevo porre riparo a quello che avevano osato dire su tuo padre, ho provato, ma immediatamente la sua denuncia viene archiviata, perché il questore di Milano poteva dire e fare tutto quello che voleva. Man mano c'è un'opinione pubblica, una società civile che si ribella a quello che è successo e che pian piano nel tempo smaschererà tutte quelle che sono le fandonie del potere. E parte forse tutto da questo piccolo nucleo originario di queste persone che si chiedono che cosa possono fare, e da un gruppo di giornalisti, alcuni presenti alla conferenza stampa, Camilla Cederna, una grandissima giornalista che fino a quel momento, fino al saggio di Piazza Fontana, si occupava di moda e costumi e teneva una rubrica su un settimanale, L'Espresso, e la rubrica si intitolava Il lato debole. Lei faceva parte dell'alta borghesia milanese e in questa rubrica lei metteva un po' alla berlina quelli che facevano parte del suo mondo. Giorgio Bocca, Marco Noz, tutti i giornalisti che cominciano a fare una vera e propria opera di controinformazione rispetto alle veline della questura. E cominciano. Marco Noz ha scritto un libro che riporta abbastanza bene quello che poteva essere il loro intento. Si intitola Il Pistarolo, cioè quello che non accetta le veline ma segue le piste. Marco Noz fa una cosa che doveva essere normale, cioè il giorno dopo la morte di mio padre va a sentire i testimoni, quelli che dicono sì, era qua al bar a giocare a carte, va intervista una vicina di casa di Valpreda che gli aveva portato il chinino perché aveva l'influenza, mentre tutti i familiari di Valpreda sono stati accusati di falsa testimonianza e nessuno andrà a parlare con questa persona estranea alla famiglia che testimonierebbe che Valpreda era letto con l'influenza. E pochi mesi dopo la strage di Piazza Fontana, nel giugno del 1970, esce un libro che si intitola La strage di Stato, che è un libro fondamentale e che è frutto del lavoro e dell'impegno di tante persone che con estremo coraggio sono andate oltre e noi come famiglia, noi bambine abbiamo cambiato scuola, abbiamo cambiato casa, siamo stati rimbalzati da un parente all'altro. Cambiando scuola dovevamo fare un lungo itinerario e man mano abbiamo visto i muri di Milano che si sono messi a parlare. E su quei muri c'era scritto Valpreda innocente, Pinelli assassinato, Calabrese assassino, la strage di Stato. Tutte le denunce presentate dalla mia famiglia sono finite in archiviazione. Non siamo mai riusciti a entrare in un'aula di tribunale, come poi è successo a molti altri vittime di Stato. Lo Stato non processa se stesso, né adesso né allora. E, la morte di Giuseppe Pinelli, archiviata prima come suicidio, poi come morte accidentale, da cui Dario Fo trarrà il titolo della sua rappresentazione teatrale Morte accidentale di un anarchico, che se vi capita la trovate su YouTube, andatela a vedere perché vi fa ridere. E è grottesca. Dario Fo non ha fatto altro che prendere i verbali della polizia per fare questa sua rappresentazione teatrale. E poi definitivamente la morte di Giuseppe Pinelli viene archiviata da un giudice democratico, il giudice D'Ambrosio, a cui viene affidata la denuncia che viene presentata dalla mia famiglia, quindi da mia madre, ma noi eravamo ancora minorenni, per sequestro di persona, per abuso di autorità, abuso di ufficio, per maltrattamenti. E vorrei ricordarvi che non c'è ancora una legge sulla tortura in Italia. E quindi l'indagine viene affidata al giudice D'Ambrosio, che io ho incontrato solo una volta nella mia vita dopo 40 anni. Cosa sono 40 anni nella vita di una persona? E lui mi ha detto: io mi devo giustificare con lei. Era una diretta radiofonica per Radio 3, ho fatto quello che ho potuto. E mi ha detto, no, sono il primo, cioè quando muore qualcuno, il magistrato di turno deve immediatamente uscire sul luogo dove è successo. E, nel caso di suo padre non è uscito nessuno, nessun magistrato. Chi era morto? Un ferroviere, un anarchico. E, quindi il giudice D'Ambrosio è il primo magistrato che esce sul luogo dove è morto mio padre e fa i rilevamenti nel cortile della questura dopo 3 anni dalla morte. E fa delle prove con un manichino che riproduce la, la fisionomia, cioè le sembianze, quindi la statura, la corporatura di mio padre, e fa delle prove di caduta dalla finestra. E il giudice D'Ambrosio, che poi proseguirà una carriera sia in magistratura che all'interno del Partito Comunista, che poi diventerà senatore, eccetera, archivia escludendo il suicidio, escludendo l'omicidio e attribuendo la morte di mio padre a un probabile malore, cioè dopo 3 giorni di maltrattamento, privato di cibo e di sonno, presumibilmente Giuseppe Pinelli si è sentito male. Quindi avrebbe dovuto accasciarsi, invece è precipitato da una finestra. Quindi per il giudice D'Ambrosio c'è stata un'alterazione del centro di equilibrio che nella poi vulgata popolare è diventato un malore attivo, l'unico caso al mondo di malore attivo. Definizione che non troviamo in nessun manuale di medicina legale. Se sono troppo lunga, dimmelo. No, direi di no. E niente, adesso poi la cosa è praticamente finisce la possibilità di qualsiasi altra iniziativa a livello legale con questa sentenza di D'Ambrosio. L'unico processo in cui si parlerà della morte di mio padre è quello intentato dal commissario Calabresi contro un gruppo dell'estrema sinistra che si chiamava Lotta Continua, che aveva un giornale. Lotta Continua farà una campagna violentissima come, contro Calabresi, indicandolo come l'assassino di Giuseppe Pinelli. Praticamente tutti presenti in questura quella notte e presenti in quella stanza quella notte sono stati promossi e trasferiti in altre sedi. Nessuno è stato indagato o allontanato momentaneamente dal servizio. L'unica persona che è stata lasciata a Milano è stato il commissario Calabresi, che viene immediatamente indicato dal questore guida come il responsabile dell'interrogatorio quella notte sulla stanza da cui è precipitato mio padre. Lotta Continua fa una campagna violentissima contro Calabresi e Calabresi proverà per 3 volte a denunciare il giornale. Glielo impediscono per 2 volte, la terza volta glielo permettono, ma lo lasciano da solo, cioè il Ministero degli Interni non si costituisce insieme a lui. E si apre questo processo che diventa molto rapidamente un processo contro la polizia. I poliziotti interrogati cadono in ripetute contraddizioni, tanto che c'è il giudice che dice a uno di loro: lei sta parlando troppo, si attenga alla versione che avevate dato. Quando viene chiesta la riesumazione del corpo di mio padre per fare una vera autopsia con dei periti di parte, l'avvocato di Calabresi ricusa il giudice. Dice che il processo è già stato, cioè è già stata stabilita la sentenza e che il giudice è un giudice di parte. Il giudice verrà poi assolto da questa accusa, ma questo serve per bloccare il processo e per non fare l'autopsia. Quando il processo si riaprirà, il commissario Calabresi è stato assassinato. Il commissario Calabresi venne assassinato il 17 maggio del 1972. Con la morte di Calabresi si chiude definitivamente per la mia famiglia la possibilità di arrivare a una verità all'interno di un'aula di tribunale. Con un velocissimo balzo temporale dico l'ultima cosa, poi vi dico come nel 2009 sono passati 40 anni dalla strage di Piazza Fontana e dalla morte di Giuseppe Pinelli. Nel 2009 noi non abbiamo avuto nessun, fino a quel momento non abbiamo avuto nessun contatto con i familiari delle vittime di Piazza Fontana. Pinelli e Piazza Fontana hanno percorso binari paralleli, non si sono praticamente mai incrociati fino al 2009. Il processo per la strage di Piazza Fontana si apre nel 1972 a Milano. Da Milano viene spostato a Roma. Da Roma, per incompetenza territoriale, viene rimandato a Milano. Da Milano, per motivi di ordine pubblico, viene mandato a Catanzaro, 1200 km di distanza da Milano, rendendo così praticamente impossibile per i familiari delle vittime seguire le udienze. A Catanzaro i due filoni di inchiesta, perché ci sono due filoni di inchiesta, cioè la questura di Milano che ha indagato tutti gli anarchici, quindi le accuse verso Valpreda, e noi sappiamo per certo che ha continuato a indagare anche su Pinelli, cercando di attribuirgli una qualsiasi responsabilità, piuttosto negli attentati sui treni, lui era un ferroviere, quindi chi poteva aver fatto gli attentati sui treni, senza trovare nulla. Quindi la questione di Milano ha sempre portato avanti le accuse verso gli anarchici. Ma un maestro elementare di Treviso, Lorenzon, si era recato nei giorni successivi alla strage da un giudice, il giudice Stiz, e gli aveva raccontato le confidenze che aveva ricevuto da un suo amico, che si chiamava Giovanni Ventura, e che faceva parte, insieme a Freda, di questo gruppo nazifascista Ordine Nuovo. In Veneto cominciano a indagare nei gruppi nazifascisti. La questura di Milano continua a ignorare tutto ciò, a ignorare volutamente tutto ciò e a portare avanti le accuse verso gli anarchici. A Catanzaro per la prima volta questi due filoni di indagine si uniscono e questo comporterà nel tempo l'uscita di scena degli anarchici, che verranno assolti anche con formule dubitative, e una prima condanna per i nazifascisti veneti Freda e Ventura, che verranno fatti scappare all'estero dai servizi segreti italiani. Successivamente verranno assolti nei successivi gradi di giudizio, verranno individuati dei nuovi possibili responsabili, si arriva al 2005, quindi si apre nel 1972 e si chiude nel 2005. E nel 2005 vengono assolti tutti gli imputati, individuati come responsabili materiali della strage Freda e Ventura, nazifascisti veneti, ma non più imputabili perché già assolti in precedenti procedimenti. E i familiari delle vittime di Piazza Fontana vengono condannati al pagamento delle spese processuali. Questo, così si chiude il processo per la strage di Piazza Fontana. 2009 riceviamo una telefonata, mia madre riceve una telefonata, e dal Quirinale, e veniamo informate che l'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in occasione della giornata della memoria per le vittime del terrorismo e delle stragi il 9 maggio, avrebbe inserito il nome di Giuseppe Pinelli quale 18ª vittima innocente della strage di Piazza Fontana, e ci chiedono di partecipare. Giorgio Napolitano è stato anche ministro degli interni, magari qualcosa, qualche carta, qualcosa. Comunque noi ne discutiamo molto in famiglia, mia madre e io accompagno mia madre, andiamo. Non ci fanno entrare dall'ingresso principale, hanno focalizzato l'attenzione della giornata su questa cosa, ci fanno entrare dalle scuderie del Quirinale e ci fanno entrare nell'aula dove si tiene questo, questo incontro quando i giornalisti sono stati messi dietro una transenna. E quindi ascoltiamo le parole che dice Francesca Dendena, che allora era la, purtroppo è morta, la presidente dell'Associazione delle Vittime, dei familiari delle vittime di Piazza Fontana, e che riconosce Giuseppe Pinelli, quale 18ª vittima, innocente quanto le loro vittime, e le parole di Napolitano, che sono parole importanti, pesanti, cioè dice rispetto e omaggio per la figura di un innocente Giuseppe Pinelli, vittima due volte di infondati sospetti di un'assurda fine. Dice anche senza mettere in discussione la sentenza di un giudice di specchiata, che ha parlato di un malore, e invece Napolitano parla di un'assurda fine. Comunque in quel momento noi abbiamo avuto il sentore di quello che potrebbe essere una democrazia di diritto, no? Una democrazia che riconosce gli errori commessi, che non ha paura della verità. Ecco, in realtà poi la cosa è finita lì. È stato usato, c'è stato un tentativo di usare questo momento per parlare di memoria condivisa, di pacificazione. Ma la memoria condivisa e la pacificazione potrebbe esserci solo nel momento in cui si racconta la verità, in cui si ha il coraggio di ammettere le responsabilità, soprattutto da parte delle istituzioni che tutto ciò hanno voluto, provocato e coperto. Quelle stesse istituzioni, quando noi parliamo di strage di Stato, non è che è un modo di dire, cioè è dimostrato che quella strage e quelle precedenti avevano nei servizi segreti persone che volevano, nei servizi segreti e nelle istituzioni, persone che volevano fermare un movimento che spingeva per fare sì che la nostra società fosse diversa, in cui i diritti di tutti sarebbero stati rispettati. Quindi per bloccare tutto ciò hanno usato le bombe. E tutto ciò è dimostrato, ma non è ammesso. Quindi nel momento in cui ci sarà un riconoscimento di responsabilità da parte delle istituzioni, allora potremo parlare di memoria condivisa e pacificazione, perché altrimenti non ha senso. Lascio la parola a lui adesso. Beh, intanto grazie. Toccanti, insomma, è toccante la tua testimonianza, il tuo racconto, per tanti motivi. Io nelle parole che hai detto ho avuto tantissimi flash, perché hai descritto benissimo quelle che sono le dinamiche che ritroviamo tuttora in casi come quello di Stefano Cucchi, di Federico Aldrovandi e di tanti, tanti altri. A livello politico, andando indietro nel tempo, il fascismo che arriva per fermare, sostanzialmente ferma il biennio rosso. Insomma, sembra che questo paese sia in un loop eterno. Però c'è una frase che hai detto che mi ha colpito particolarmente e che ci porta anche al presente, su cui appunto, attualizzando il discorso, per quanto molto attuale, anche se è un discorso di una storia di 50 anni fa, e tu parlavi di questo nucleo di persone che ha aiutato tua madre, voi, la vostra famiglia, un piccolo gruppo di persone che poi appunto si è appoggiata, ha avuto l'appoggio anche di giornalisti. E il tema, sostanzialmente, queste persone si sono dimostrate solidali. E allora il passaggio che volevo fare è con uno scatto che mi sembra esserci oggi, nel 2017, 2018 oramai, però lo scatto forse è cominciato nel 2017, e è un interrogativo che ti giro. A me sembra che nell'epoca in cui che stiamo vivendo, sebbene gli anarchici siano sempre stati, come dire, no, lo spauracchio, il capro espiatorio, oggi c'è qualcosa di ulteriore, e cioè in particolare la criminalizzazione della solidarietà. Lo abbiamo visto appunto a Ventimiglia, a Bardonecchia, lo abbiamo visto con questa campagna mediatico-giudiziaria politica nel Mediterraneo delle ONG. Tra l'altro, i due procedimenti giudiziari aperti dal procuratore di Catania Zuccaro, adesso non so dove va l'accento sul cognome, si sono sgonfiati, tutti e due. Recentemente sono notizie, insomma, giudiziarie, che la settimana scorsa la nave della Proactiva Open Arms è stata dissequestrata. Quella precedente, leggevo un articolo oggi su Internazionale, su invece la nave della Jugendrettet, stesso discorso. Ecco, c'è uno scatto in questo senso secondo te? Ci dobbiamo preoccupare anche perché, oltre all'angoscia di vivere in un paese di questo tipo, ora non va più neanche bene la solidarietà? Ma allora, sicuramente le cose sembrano andare sempre peggio, perché appunto adesso c'è questo discorso della solidarietà e del poter dire qualsiasi cosa come se fosse normale, cioè le cose più atroci come se fossero normali. Ecco, nello stesso tempo però diciamo che a livello mediatico sicuramente sono enfatizzati questi aspetti, però a livello di persone, cioè io incontro tantissimi territori solidali e resistenti che non si lasciano certo influenzare da quello che può essere un uso di gran cassa fatto sui social piuttosto che sul... Chiaro che la parte brutta probabilmente viene enfatizzata di più, mentre quello che la gente fa, perché le persone fanno a livello di centri sociali, cioè ci sono un sacco di persone che fanno. A me quello che mi dicono, cosa vai a fare nelle scuole, i giovani sono indifferenti. Anche quello non è vero. Le persone, qualsiasi persona, a prescindere dal livello generazionale, non può sapere tutto. E tu quando vai a parlare in una scuola, perché di solito ti invitano dei ragazzi innanzitutto, per cui comunque già c'è qualcuno che... E poi stimoli, si spera almeno che stimoli la curiosità, cioè non tutti devono sentirsi coinvolti, però magari se sei arrivato a due, tre, che si vanno a vedere la storia, cioè io quello che gli dico poi è la cosa importante, la cosa che dovrebbe fare la scuola è sviluppare un pensiero critico, non un'accettazione passiva di contenuti, per cui anche nel momento in cui io racconto, però io sono di parte. La cosa importante è farsi un'idea propria e non accettare passivamente. Quindi, secondo me, chiunque stimolato nella maniera adeguata, ma stimolato ad avere una mente critica, ecco, non, che forse è quello che manca se non vivi poi in situazioni reali, no? Cioè, vivere all'interno di una scuola, vivere all'interno di posti dove la solidarietà non è semplicemente uno slogan, ma viene fatta sul campo. Ecco, di fronte a questo sconforto che può prendere, no? Io continuo a conservare l'ottimismo di colei che vede che ci sono invece tante persone che non sono così, per cui non è vero che tutto è perso, anzi, cioè bisogna recuperare determinati valori, ma molti li hanno già, non hanno bisogno di recuperarli. Poi appunto cioè la situazione è terribile adesso, è vero, però non è che 50 anni fa andasse meglio, eh. Cioè, ci sono state le bombe, c'è stato, cioè, dopo il periodo delle stragi sono state tutte quelle morti per eroina, cioè tutta quell'eroina buttata sulle piazze per distruggere una delle generazioni intere, per distruggere i cervelli. C'è stato il periodo del terrorismo, che è stato pesantissimo, pesantissimo, pesantissimo, perché queste persone sono diventate poi degli assassini seriali. Ecco, diciamo che ci sono tante belle persone che sono sopravvissute a tutto questo e quindi continueranno a sopravvivere, e ci saranno altre persone che continueranno a portare avanti dei valori e che credono che un mondo diverso sia possibile. Ma non solo come slogan, anche questo. E allora ti faccio, venendo appunto anche un po' all'argomento del titolo di questa serata, oggi si discute molto di fascismo e antifascismo, e all'interno di che cosa sia antifascismo qualcuno prova anche a segnare delle patenti, cioè dal tuo punto di vista che cos'è antifascismo? Ma sicuramente è il rifiuto della sopraffazione, è il rifiuto del razzismo, della xenofobia. Per me questo è antifascismo, è la solidarietà, è il portare avanti dei valori. Diciamo che forse ho più chiaro ancora che cos'è il fascismo, cosa sono i fascismi. E per me il fascismo è l'ignoranza, è la mancanza di empatia, il non riconoscere l'altro come simile a te. E ignoranza anche perché in questi gruppi neofascisti c'è una profonda ignoranza sulla loro storia. Ed è questa forse la cosa fondamentale, cioè il discorso del continuare a portare avanti la memoria non deve essere un mero esercizio intellettuale, ma un valore. Cioè la memoria è quello che può permettere che non si compiano più certi gesti, certi atti. Chiaro che poi per noi la memoria e il ricordo è una cosa ancora più particolare, perché nella nostra storia in tanti cercano di metterci le mani trasformandole in qualcos'altro, no? Cioè negli anni sono usciti libri, sono stati fatti film, è stata fatta una orribile fiction televisiva, quindi continuare a portare avanti una testimonianza è anche un modo per salvaguardare questa verità storica, che appunto, come dicevo prima, è stata conquistata con il sacrificio e con il lavoro e l'impegno di tante persone. E quindi la domanda è, scusa, che cos'è per me l'antifascismo comunque è continuare anche a scendere in piazza, continuare a farci vedere, continuare a dire no, non, le cose non possono andare in un determinato modo. Ecco, tutto questo mio ottimismo ogni tanto cade miseramente nello sconforto più totale, però continuiamo a cercare di riconoscerci, perché appunto ci sono tante persone che sono attive, no? Che insegnano l'italiano agli stranieri, che fanno solidarietà, ma non calata dall'alto, no? Ma con una vera empatia verso gli altri, e che non credono che il problema sia negli ultimi della terra, ma in chi gestisce questo potere. E allora, visto che hai vissuto un'epoca insomma particolare, in cui eri una bambina, però insomma, Ti faccio anche un'altra domanda secca come quella di prima: che cos'è per te violenza? Perché la contestualizzo, il dibattito che c'è stato dopo l'attentato di Macerata e in particolare prima delle elezioni con diciamo le manifestazioni contro i raduni diciamo di Forza Nuova e Casa Pound nelle piazze, come dire, organizzazioni dichiaratamente e tra l'altro sedicenti, no? Fasciste, c'è stato un po' anche di dibattito su appunto come debba essere appunto l'antifascismo e su il concetto di violenza. Tu su questo come la pensi? Ma guarda, guarda, personalmente io adesso, allora io sono non violenta, adesso non so se per una questione di vigliaccheria, nel senso che comunque ho molta paura di qualsiasi scontro fisico. Le cose cambiano quando cambiano le teste, non quando metti KO l'avversario. Sono le teste che devono cambiare, quindi è più una questione culturale che una questione fisica. Dopodiché, questa è una mia visione delle cose, cioè io mi sento lontana, no, da forme di violenza o di imposizione attraverso uno scontro. Però sono io, in questo caso sto parlando solo a livello personale. L'ultimo libro che mio padre stava leggendo era un libro di Gandhi, e questo sono risalita perché ero stata invitata dal Centro Studi Sereno Regis di Torino per una rassegna che fanno a Torino, all'interno del Torino Film Festival, che si intitola Gli occhiali di Gandhi. E quindi, parlando con mia madre di questo invito, lei mi ha detto: ma pensa, è l'ultimo libro che tuo padre stava leggendo, il libro di Gandhi, perché la non violenza non è passività, la non violenza è qualcosa di attivo, è qualcosa che ti deve portare a un cambiamento, non è che tu sei fermo e la subisci, e subisci la violenza degli altri. Per cui questo aveva portato a tutta una serie di riflessioni, no, su che cosa dovrebbe essere quali potrebbero essere gli strumenti, no, che un movimento non violento può portare avanti. Comunque nella mia visione globale, prima te l'ho detto, cioè per me il motto della Val di Susa: si parte e si torna insieme. Questo è importante, anche con visioni diverse di modalità di azione. Ecco, a questo punto magari facciamo anche, se c'è qualcuno del pubblico che vuole fare una domanda, una riflessione, fatevi sotto. È un'occasione, insomma, è un'occasione questa quella di avere Claudia, quindi... Tu non sei il pubblico, però. Io ti chiederei due cose. Una, adesso hai parlato di si parte, si torna insieme, mi chiedevo in ottica invece intergenerazionale, e mi collego. Quando avevamo chiacchierato prima che tu venissi qua, si è ragionato su quella cosa che avete letto, chi ha letto la locandina di Annuncio della Serata, sul fare camminare qualcuno con le scarpe, con delle altre scarpe. Non è scontato, perché uno è figlio di qualcuno, che trasformi la battaglia di quel qualcuno nella propria battaglia, o che comunque si renda la propria vita. Come avviene questo passaggio? E quindi in questo senso resistenza oggi, e come tu, come testimonianza, qual è come tu te la sei vissuta come donna, come persona, rispetto alla figura di tuo padre, rispetto a un credo politico, un'ideologia politica rispetto all'anarchismo. Voglio dire, io non sono mio padre, io non sono quello che mio padre crede. Tu immagino che non sarai quello che tuo padre crede, ma in qualche modo... E quindi questo... Mi chiedo se puoi raccontarci qualcosa sul come hai maturato la scelta e l'attività di portare avanti questa storia, e anche se magari ci puoi dire qualcosa su come vedi, io vedo, ritornando a dove eravate adesso nella discussione, all'attualità, vedo un forte clivage, no? C'è una scissione generazionale. Questa non è banale, non è scontata nel tuo caso, se riprendendo le cose, i valori di un Giuseppe Pinelli, in qualche modo qualcosa su questo mi chiedevo. Allora, adesso vediamo se riesco a ricostruire tutta la domanda. Allora, io non sono Giuseppe Pinelli, okay? Io sono Claudia. Mia madre in questo senso è stata bravissima, anche in questo senso è stata bravissima, perché mia madre è riuscita a diventare una roccia e a difendere la memoria di Pino e a permettere a me e mia sorella di diventare grandi e di fare le nostre scelte, senza mai imporci nulla di portare avanti questa memoria o meno. Ci siamo arrivate dopo, negli anni. Cioè, io adesso mi definisco libertaria. Anni fa no. Qualcuno adesso mi dice, ma tuo padre non avrebbe detto, tuo padre non avrebbe fatto. Io sto parlando come Claudia, non sto parlando come Giuseppe Pinelli. Di solito rispondo, va bene, organizziamo una seduta spiritica e glielo chiediamo che cosa avrebbe detto, fatto. Non è stato facile, è stato estremamente difficile. Noi siamo diventate le figlie di Pinelli. Io avevo 8 anni, mia sorella ne aveva 9. Ho cominciato il liceo e l'insegnante mi ha detto: tu sei in questa classe perché sei la figlia di Pinelli, io volevo averti nella mia classe. Io l'ho odiata con tutte le mie forze. C'è stato un periodo della mia vita che io non volevo essere la figlia di Pinelli, o comunque non volevo essere solo la figlia di Pino. E volevo sbagliare, volevo poter avere una vita. Ecco. E quindi io adesso dico... Io sono Claudia Pinelli, sono anche la figlia orgogliosa di Giuseppe e Licia, ma sono Claudia. Con le mie figlie, stesso discorso. Allora, mia figlia grande, che adesso ha 26 anni, a 4 anni entra in casa della nonna e, come fosse la prima volta, vede questa riproduzione di un quadro, di una grande installazione, questa è una litografia invece, una grande installazione che fece Enrico Bai, I funerali dell'anarchico Pinelli. Vede questa litografia e chiede alla nonna, ma perché quell'uomo cade, ma perché quelle mani non lo trattengono? E mia madre le ha risposto, chiedilo alla tua mamma. E quindi... è cominciato con mia figlia questo ricostruire, no? Chi fosse suo nonno, che cosa era successo. E Martina nel tempo ha fatto tantissime domande, solo che poi io ho avuto un'altra figlia dopo 6 anni. E ho ricominciato da capo e mi sembrava di aver già dato, per cui invece mi sono resa conto che Arianna, che invece non ha mai fatto domande, io alla fin fine non avevo raccontato praticamente nulla. E quando le hanno chiesto, ma perché la mamma è andata al Quirinale, perché è andata a Roma, lei ha risposto, perché mio nonno era partigiano e morto che c'era la guerra. Allora, più o meno, in effetti, aveva in qualche modo ricostruito lei una cosa. E in prima media le viene dato un tema, parlami del nonno. E io faccio, ti prego, parla dell'altro nonno, che cioè non c'è bisogno. E lei dice, ah, va, faccio da sola. Faccio da sola, vado a vedere su internet. Poi è tornata e mi ha detto, mi raccontano tutti com'è morto, ma il nonno ha avuto una vita. Raccontamelo da vivo. E quindi anche con lei c'è stato questo percorso, raccontamelo da vivo. Pensa che con mia figlia grande, in terza media, è stato organizzato dalla scuola un incontro con i partigiani della zona, che erano, quando mia figlia era in terza media, già persone molto anziane, quindi nel frattempo non ci saranno più. Quando siamo usciti da questo incontro, che è stato organizzato nella biblioteca della zona, Martina mi ha detto, sai che è la prima volta che mi rendo conto che quel nome sopra quella targa sotto cui passo tutti i giorni era un ragazzo di 18 anni. E le parole del partigiano che raccontava la vita di questo nome su una targa, è come se quel ragazzo fosse sceso dalla targa. Ecco, e diciamo che le mie figlie mi hanno aiutato e mi sono servite, no, per rendermi conto che Giuseppe Pinelli non è il nome sulla targa che trovate in Piazza Fontana, anzi sulle due targhe che trovate in Piazza Fontana. Giuseppe Pinelli era una persona che aveva una vita, ha avuto una breve vita, gli hanno lasciato una breve vita, ma l'ha vissuta intensamente e ci ha lasciato tanto. Due targhe in Piazza Fontana, perché il nome di Giuseppe Pinelli non lo trovate sulla targa che riporta i nomi delle 17 vittime della bomba, e questo neanche dopo l'intervento di Napolitano. Il nome di Giuseppe Pinelli è nel giardinetto di fronte a quella che era la Banca Nazionale dell'Agricoltura, sempre lì in Piazza Fontana. C'era questa targa che nel 1977 è stata messa dagli studenti democratici milanesi, riporta questa dicitura, in cui c'è scritto a Giuseppe Pinelli, ucciso innocente nei locali della Questura di Milano. La prima targa, molto deteriorata, era stata sostituita da un'altra che riportava la stessa scritta. Nel 2007, e tra l'altro nel 1994, la targa, che era stata messa in maniera abusiva, è stata riconosciuta dal Consiglio Comunale come parte integrante della piazza, quindi non doveva essere toccata. Invece nel 2007, allora sindaco era Albertini, una notte la targa viene portata via e sostituita con un altro ufficiale del Comune di Milano, quindi l'istituzione che emette una targa per Giuseppe Pinelli. E si legge Giuseppe Pinelli, innocente, morto tragicamente nei locali della Questura di Milano. Quindi è stata tolta la parola ucciso, innocente, morto tragicamente. Ci fu una manifestazione, i compagni recuperarono la targa molto deteriorata e la riposizionarono nel giardinetto, di fianco a quella del Comune, quindi per questo motivo in Piazza Fontana ci sono due targhe, una è del Comune di Milano e l'altra è degli studenti dei democratici milanesi. In uno c'è scritto ucciso e nell'altro morto tragicamente. Secondo me è utile anche quella del Comune, perché ti dice, fai attenzione che se entri in una questura ti può capitare di morire tragicamente. In entrambi c'è scritto ucciso, in entrambi c'è scritto innocente. Che è vero, Giuseppe Pinelli era completamente innocente, ma nessuno deve morire in quella maniera, né colpevole né innocente. Non esiste la pena di morte. Quindi abbiamo queste due targhe. La targa più deteriorata è stata sostituita definitivamente l'anno scorso con una insieme di energie, cioè c'è chi ha pensato alla sostituzione della targa, c'è chi ha pensato, chi l'ha realizzata, cioè i marmisti di Carrara che hanno realizzato la targa, i fabbri della fabbrica rigenerata di Maflo, che è una fabbrica occupata in cui si svolgono di Trezzano sul Naviglio, hanno realizzato un'intelaiatura di metallo con incudine e martello e si sono fatti dare dalle ferrovie un binario, perché Pino era un ferroviere, e le ferrovie volevano che venisse pagato, ma gli hanno detto che era per la targa di Pinelli, gliel'hanno regalato, e loro hanno spezzato questo binario e dal binario hanno fatto uscire una rosa. E va bene, noi continuiamo appunto a portare avanti questa memoria e il ricordo. La memoria lo fai con la testa, ma il ricordo lo fai col cuore. Ecco, cerchiamo di portare avanti. Ma anche perché, come dicevo prima, nella nostra storia in tanti, forse lo dicevo prima a te, in separata sede, in tanti ci hanno messo le mani. E sono usciti tanti libri e non tutti validi o corretti da un punto di vista storico. L'ultimo libro su Piazza Fontana, che è quello di Cucchiarelli, da cui sono stati acquisiti i diritti d'autore, tratta la sceneggiatura per il film di Marco Tullio Giordana, Romanzo di una strage. È un libro che da un punto di vista storico ha delle lacune incredibili ed è un romanzo di fantapolitica in cui si dice che i colpevoli sono stati i fascisti, però gli anarchici qualcosa c'entravano, non il santo Pinelli, ma Valpreda, che era una testa. Ecco, la storia non si fa così, cioè non si fa ribettendo dentro persone che hanno sofferto già a sufficienza, vero? Senza bisogno di altri che vogliono fare scoop sulla loro pelle. Poi è uscito il film di Giordana, in cui c'è un commissario di polizia integerrimo che si chiamava Luigi Calabresi, che a cui è capitata questa morte di questa persona. E Marco Giulio Giordana mostra come tutto marcia sotto di lui, intorno a lui, sopra di lui, ma l'unico santo integerrimo è lui. Tra l'altro, per il commissario Calabresi c'è stato un processo di beatificazione laico portato avanti dal figlio, eccetera, ma c'è anche un processo di beatificazione che viene portato avanti in Vaticano, quindi un processo di beatificazione per Luigi Calabresi, commissario di polizia, che viene portato avanti dal padre confessore di Luigi Calabresi, che ha fatto un evento, e purtroppo a Senigallia, che è il paese natale di mia mamma, nelle Marche, e mi hanno mandato la locandina in cui c'è scritto Luigi Calabresi, il santo, il martire. Fare quello che Cristo ci chiede e fare la sua volontà, con la presenza del vescovo di Senigallia e del vescovo di Ascoli Piceno. Cioè, questi ci credono davvero. Però diciamo che questo, Senigallia è anche la patria di Pio IX, no? Il papa più longevo, che ha fatto fucilare una marea di persone. Ecco, anche quello è beato, quindi probabilmente... Poi i processi di beatificazione del Vaticano a me sono completamente oscuri, però insomma qualche dubbio su questa cosa. E quindi per questo dicevo, quindi noi non dirigiamo un giornale, cioè lui è Mario Calabresi, figlio di Luigi Calabresi, è direttore della Repubblica, ecco, noi non abbiamo questa possibilità. Per cui continuiamo, come in tutti questi anni, a essere una goccia d'acqua, una piccola goccia d'acqua resistente che comunque in tutti questi anni qualcosa ha scalfito. Ecco, e continuiamo a fare così. Ci sono altri? Io volevo chiedere se ci parlava di come la pensa o di raccontarci qualcosa riguardo all'epopea appunto dell'opera di Enrico Bai, chiamiamola epopea, chiamiamola mancata collocazione a Milano, e di raccontarla dal suo punto di vista. Grazie per la domanda, perché in effetti è qualcosa a cui teniamo molto. Però allora, Enrico Bai ha la possibilità nel 1972 di fare un'esposizione delle sue opere a Palazzo Reale a Milano, nella Sala delle Cariatidi, dove qualche anno prima era stata esposta Guernica di Picasso. Enrico Bai decide di non esporre le sue opere, ma di costruire un'opera in quella sala per quella sala. E quell'opera, siccome Enrico Bai si era specializzato nella riproduzione di opere famose, e in quel periodo avrebbe voluto rifare i funerali dell'anarchico Galli di Carrà, decide di fare un'opera originale, ma di intitolarla I funerali dell'anarchico Pinelli, facendo riferimento al titolo dell'opera di Carrà, con la quale non c'entra nulla, però. Quindi realizza quest'opera, questa installazione, pensando a quella sala, che è una sala enorme. L'installazione è grandissima, sono 12 metri per 3 di altezza, con 4 figure staccate dal contesto, come una specie di palcoscenico davanti a questo pannello con le figure. Quindi centrale c'è il corpo di Pino che cade, sulla destra ci sono i generali, i militari che hanno ingranaggi al posto degli occhi, che hanno medaglie sul petto, dall'altra parte c'è chi assiste alla caduta e partecipa ai funerali, e ci sono delle persone che riconosciamo, c'è Camilla Cederna, c'è lo stesso Bai, c'è il gallerista Marconi. Quindi è un pannello di panforte di betulla di 12 metri, in cui le figure si ricompongono, cioè sono staccate dal pannello, e come un grande puzzle vengono incastrate nello sfondo del pannello. Le figure staccate dal contesto sono la finestra, che a seconda dove viene esposto viene spostata, o è sopra o è di lato, eccetera. E la base, davanti al pannello, Bai aveva scelto di mettere delle passamanerie, che dovevano mostrare il marcio del sistema. E peccato che non abbiamo un proiettore, perché avevo una chiavetta e la facevo vedere, che era più chiaro. E poi c'è mia madre, che ricorda una figura, la Guernica di Picasso, la figura di donna che c'è nella Guernica, e poi ci siamo io e mia sorella, e siamo staccate dal quadro. Spiegato così, è policroma, cioè nel senso che è legno, sono figure che appunto si incastrano nel pannello, sono figure colorate. Un'immagine forse avrebbe reso meglio questa idea. L'opera avrebbe dovuto essere, l'esposizione avrebbe dovuto essere inaugurata il 17 maggio del 1972. Il 17 maggio del 1972 uccidono il commissario Calabresi, e quindi viene proibita l'inaugurazione della mostra, viene rimandata a non si sa quando, e non verrà mai fatta. Come se ci fosse muore il commissario Calabresi. Il commissario Calabresi è stato assassinato, gli sparano sotto casa. Dopo moltissimi anni, per la morte del commissario Calabresi, vengono condannati tre persone appartenenti a Lotta Continua: Adriano Sofri, Bonpressi e Pietro Stefani. Ma questa è un'altra storia rispetto al quadro. Il quadro poi verrà venduto da Bai al gallerista Marconi, e quest'opera viaggerà in tutto il mondo. Recentemente è stata 6 mesi ad Amsterdam al Museo d'Arte Moderna, ma a Milano verrà esposta brevemente a Brera, e poi da giugno a settembre solo nel 2012, nella Sala delle Cariatidi. Il gallerista Marconi sarebbe disponibile a cederla al Comune di Milano se il Comune di Milano si impegnasse a esporla in un luogo idoneo e in maniera definitiva, in un posto aperto al pubblico. Il Comune di Milano non si è preso assolutamente nessun impegno in questo senso. Recentemente Galerista Marconi, quando l'opera è tornata da Amsterdam, l'ha esposta nella sua galleria. Chiaramente l'effetto è completamente diverso rispetto alla Sala delle Cariatidi, perché è un'opera imponente che ha bisogno di spazio per poter essere vista nella sua complessità, mentre in una sala pur grande perde la profondità e non ha la possibilità anche di girare dietro l'opera, perché è tutta disegnata anche nel retro del pannello. Avevano balenato la possibilità di che venisse messa all'Università Statale, ma poi per motivi politici la cosa non è andata in porto. Il gallerista Marconi ha avuto delle offerte dall'estero. Lui le ha rifiutate, però mi ha detto: io non posso sapere cosa decideranno di fare i miei eredi. L'acquisizione eventualmente dell'opera da parte del Comune di Milano sarebbe una ricchezza per Milano, perché l'opera ha un valore inestimabile. Non è certo un favore alla famiglia Pinelli, anche perché noi non abbiamo nessun interesse economico nell'opera. Ma ci sono ancora molte difficoltà oggettive. Quando è stata esposta alla Sala delle Cariatidi nel 2012, mi chiamano a Palazzo Marino perché volevano parlarmi di questo progetto. Gli ho fatto presente che noi appunto non siamo i proprietari dell'opera, per cui dovevamo parlarne con il gallerista Marconi, noi non abbiamo voce in capitolo. E fa: no, perché vogliamo sapere la vostra opinione e dobbiamo chiedere alla famiglia di Calabresi. Che cosa? Dovete chiedere il permesso alla famiglia di Calabresi? C'è scritto Calabresi da qualche parte? Cioè, cosa vuol dire? E vabbè, in quel momento non ho avuto una reazione particolarmente positiva, ho detto vabbè, per me abbiamo chiuso qua. Poi la cosa è stata fatta, è stata esposta. E adesso che appunto il gallerista Marconi l'ha esposta nella sua galleria, so che il sindaco Sala è andata a vederla, so che c'è un impegno, però il problema grosso è che l'opera è sicuramente imponente e secondo me bisogna andare oltre e vederla come oggettivamente è, cioè questa è un'opera d'arte. Per cui quando viene proposto di acquisirla e di esporla alla stazione centrale piuttosto che nell'atrio del futuro teatro lirico, per me perde il senso, perché un'opera d'arte va contestualizzata e va preservata, è sicuramente un'opera molto delicata tra l'altro, e se io vado alla stazione centrale vado a prendere un treno, non la vedrei, e quello non è un poster, non è un Dazebau. Cioè rischiamo di finire un po' come, non so se avete visto il Quarto Stato a Milano, è in una parte del Museo del Novecento gratuita, accessibile a tutti, solo che uno entra e pensa di vedere il Quarto Stato, e invece uno entra e vede il Quarto Stato nell'angolino che pensi che sia finto, cioè, ti sembra strano, tra l'altro le luci esterne che riflettono sul vetro, insomma. Ecco, le opere d'arte bisognerebbe valorizzarle, ecco, non metterle in un angolino. Recentemente abbiamo aderito a una raccolta di firme che hanno fatto diverse su iniziativa, insomma, di alcune persone, perché allora, la Sala delle Cariatidi non è accessibile, perché comunque il Comune di Milano fa delle mostre temporanee che fruttano tanti soldi, per cui comunque non la darebbe. L'opera di Baie è un'opera del Novecento, quindi dovrebbe stare al Museo del Novecento. Esiste il Museo del Novecento e per me l'opera di Baie dovrebbe stare in un museo. Il gallerista Marconi ha detto: se questi continuano a non darmi una risposta, io compro un terreno e intorno a quest'opera ci costruisco un museo. Poi ci apro un bar, ci faccio mostre temporanee e vuoi vedere che gli trovo una casa. Me la faccio la casa. Ecco, questo è nella migliore delle ipotesi. Nella peggiore delle ipotesi è Marconi ha 80 rotti anni e speriamo che comunque se eredi la pensino come lui, perché l'opera è loro. Sono altri? Direi di no. Allora a questo punto, Maddalena, ti richiamo sì, sul palco. Ringraziamo ovviamente sul palco, sotto, vabbè, qui. Ringraziamo Claudia, ringrazio ovviamente anche voi di aver partecipato, però la serata non è finita. No, la serata non è finita, c'è il concerto delle Fab Trio e io volevo anche, oltre a ringraziare la Claudia per essere venuta, ringraziare Alessandro della Radio Città Fujiko e ridire che prima mi ero scordata che abbiamo deciso di invitare in particolare perché quest'anno, ma in realtà da molti anni, ma in quest'anno in particolare si è speso particolarmente per un'informazione attenta a tutte quelle che sono le istanze delle realtà sociali autogestite e quindi dello spazio come XM24 e quindi ci tenevamo a ribadirlo. Grazie a tutti, ciao. E le Fab Trio a seguire, cioè ora. Anzi no, un'altra cosa perché Rocco chiama gli interventi. No, nel senso ringraziando Claudia, insomma il titolo era l'antifascismo e resistenza oggi e insomma faccio una marchetta per XM. Siamo in una situazione in cui abbiamo degli attacchi da tutte le parti, sicuramente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane continueranno sempre più, quindi avremo bisogno di tutti, di tutta la vostra passione, di tutta la vostra positività e di tutto il vostro attivismo per districarci da questi attacchi. Come dire, la storia di Pino Pinelli è emblematica e riportandola all'oggi è qualcosa che potrebbe succedere ancora, visto che ci condannano ancora con le leggi fasciste del TULPS, visto che qualsiasi cosa facciamo ci abbiamo, come dire, qui a Bologna non si usa il motorino ma li seguiamo con le biciclette e continuiamo ad essere sotto attacco solo per esprimere la nostra criticità rispetto a un presente che non ci rappresenta e che vorremmo diverso.